Il Signore disse a Mosè: «Prendi Aronne insieme ai suoi figli, le vesti, l'olio dell'unzione, il giovenco del sacrificio espiatorio, i due capri, il cesto dei pani azimi, e raduna tutta la comunità all'ingresso della tenda del convegno». Mosè fece come gli aveva comandato il Signore, e tutta la comunità fu radunata all'ingresso della tenda del convegno. Mosè disse alla comunità: «Questo è ciò che il Signore ha comandato di fare». Mosè fece avvicinare Aronne e i suoi figli e li lavò con l'acqua. Rivestì Aronne con la tunica, gli cinse la cintura e gli fece indossare il mantello, gli mise l'efod, gli cinse i legacci dell'efod e glielo strinse con essi. Gli mise il pettorale e sul pettorale pose gli urim e i tummim. Mise il turbante sulla sua testa e sul davanti del turbante mise la lamina d'oro, corona sacra, come aveva comandato il Signore a Mosè. Mosè prese l'olio dell'unzione e unse la dimora e tutti gli oggetti che c'erano in essa e li consacrò. Asperse 7 volte l'altare con l'olio e unse l'altare e tutti i suoi arredi, la conca e la sua base, per consacrarli. Versò l'olio dell'unzione sulla testa di Aronne e lo unse per consacrarlo. Mosè fece poi avvicinare i figli d'Aronne, li rivestì delle tuniche, li cinse con la cintura e avvolse loro il copricapo, come aveva comandato il Signore a Mosè. Fece poi avvicinare il giovenco del sacrificio espiatorio. Aronne e i suoi figli imposero le mani sulla testa del giovenco del sacrificio espiatorio e Mosè fece l'immolazione. Prese il sangue e lo mise con il dito sui corni intorno all'altare e purificò l'altare. Versò il sangue alla base dell'altare e lo consacrò, compiendo il rito espiatorio su di esso. Prese tutto il grasso degli intestini e il lobo del fegato, i 2 reni e il loro grasso, e fece fumare tutto ciò sull'altare. Il giovenco, la sua pelle, la sua carne e i suoi escrementi li bruciò con il fuoco fuori del campo, come aveva comandato il Signore a Mosè. Fece avvicinare il montone dell'olocausto, e Aronne e i suoi figli imposero le mani sulla testa del montone. Mosè fece l'immolazione e sparse il sangue intorno all'altare. Poi tagliò a pezzi il montone e fece fumare la testa e i pezzi e il grasso. Gli intestini e le zampe li lavò nell'acqua. Mosè fece fumare tutto il montone sull'altare. Era un olocausto di profumo gradito, un dono al Signore, come aveva comandato il Signore a Mosè. Fece avvicinare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aronne e i suoi figli imposero le mani sul montone. Mosè fece l'immolazione e prese un po' del suo sangue e ne mise sul lobo dell'orecchio destro di Aronne e sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Fece avvicinare i figli di Aronne e mise un po' del sangue sul lobo del loro orecchio destro e sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro. Poi sparse il resto del sangue intorno all'altare. Prese il grasso, la coda, tutto il grasso che sta sugli intestini, il lobo del fegato, i 2 reni con tutto il loro grasso e la coscia destra. Dal cesto dei pani azimi che sta alla presenza del Signore prese una focaccia azima e una focaccia di pane all'olio e una sfoglia e le unì alle parti grasse e alla coscia destra. Mise tutto ciò nelle mani di Aronne e nelle mani dei suoi figli e lo agitò nel gesto di presentazione alla presenza del Signore. Mosè poi riprese ciò dalle loro mani e lo fece fumare all'altare insieme all'olocausto. Era il sacrificio di consacrazione, di profumo gradevole, dono al Signore. Mosè prese il petto e lo agitò nel gesto della presentazione alla presenza del Signore. La parte spettante a Mosè fu presa dal montone della consacrazione, come aveva comandato il Signore a Mosè. Mosè prese un po' dell'olio dell'unzione e del sangue che stava sull'altare e lo spruzzò su Aronne e sulle sue vesti, sui suoi figli e sulle vesti dei suoi figli, e consacrò Aronne e le sue vesti, i suoi figli e le vesti dei suoi figli insieme con lui. Mosè disse ad Aronne e ai suoi figli: «Cuocete la carne all'ingresso della tenda del convegno e lì mangiatela con il pane che sta nel canestro del sacrificio di consacrazione, come mi è stato comandato, dicendo: Aronne e i suoi figli lo mangino. Quanto resta della carne e del pane, bruciatelo con il fuoco. Durante 7 giorni non uscirete dalla porta della tenda del convegno fino a che si compia il tempo della vostra consacrazione. Infatti ci vorranno 7 giorni per compiere la vostra consacrazione. Come si è fatto in questo giorno, così il Signore comandò di fare per compiere per voi il rito espiatorio. All'ingresso della tenda del convegno siederete giorno e notte per 7 giorni e osserverete la norma del Signore e non morrete, perché così mi è stato comandato. Aronne e i suoi figli fecero tutto quello che aveva comandato il Signore per mezzo di Mosè.